Linee d'ombra di Matteo Caccia. Queste ragazzine, ragazze, ma anche mature, strapparsi i capelli, urlare come ossesse, svenire, portate via. Come al solito, lo spettacolo era previsto, se non erro, per le 22, e noi fummo impiegati sin dalle 13 all'interno del Cinema Teatro Adriano di Roma. La storia del famoso concerto del 27 giugno 65 all'Adriano di Roma, in una puntata che si intitola Chiedi chi erano i Beatles. Ma voi vestite così, senza giacca, senza cappello? Siete un artista? Digli, no. C'è un'amica. No, sono... sì, un artista, sì. Cioè, se no mi metti con la giacca e il cappello, no? C'ho tanti con le giacche e cappello, però sono artista, non... Dipingete? Fate il pittore? No, sono... faccio musicista. Fatemi sentire qualcosa. Adesso? Sì. Ma io, l'amica. Che mo non... adesso così non mi viene, no? Non... Vi prego. Vi prego, è difficile scegliere una fra tutte quelle che... Cioè questa qua, no? Questa è bella, cioè bella secondo me, però è solo l'inizio. Non l'ho fatta ancora, perché sto scrivendo ancora, no? E fa così, proprio inizio, no? È questa qua. Yesterday, boom, boom, boom, boom, è la musica, la faccio con la bocca. Na, na, na, na, na, na, far away, yesterday, e poi tutta questa melodia qua, insomma, no? Tutto su yesterday. È bellissima. Vi piace? È bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella. Fa piacere, che tipo, non è che io la scrivo a volte pure per me, no? Poi dico, ah, piacerà, non piacerà. Domani è il 27 di giugno e il 27 di giugno del 1965, quindi parliamo di 55 anni fa, al Cinema Adriano di Roma si teneva un concerto che è passato alla storia. Era il concerto dei Beatles. Per questo motivo abbiamo sentito Troisi cantare Yesterday, perché in questa puntata vi racconteremo due punti di vista diversi della stessa storia, cioè di quella stessa notte. Ve la raccontiamo oggi, che è un giorno prima dell'anniversario, perché domani è sabato banalmente e che non siamo in onda, quindi non possiamo fare questo miracolo. Però ci tenevamo a raccontare questa storia perché ci è arrivata un racconto meraviglioso di questo nostro ascoltatore che apre appunto la puntata di oggi, che si chiama Romolo, che era là a fare una cosa ben precisa in quei giorni, era là a fare il suo lavoro dell'epoca. Adesso, insomma, dalla storia non voglio spoilerarla, quindi la sentirete. E poi andremo a sentire invece qualcuno che è considerato addirittura uno dei massimi esperti dei Beatles qui in Italia. Questa è Linea d'Ombra, il programma che vi racconta storie, che racconta le vostre storie, le storie che hanno un confine nel mezzo, che hanno una linea di passaggio, le storie che avete voglia di raccontare e di condividere con il resto del mondo. Linee d'ombra @radio24.it. Se avete voglia di raccontarci qualche storia, qualche episodio della vostra vita che è stato un passaggio che vi ha modificati e vi ha cambiati, può essere una cosa che è legata all'infanzia, può essere legata a un viaggio, può essere legata al vostro lavoro, può essere legata a questo periodo che è stata per forza una linea di confine estrema, molto complicata per tutti, e ancora non sappiamo quale sarà il terreno nuovo su cui cammineremo, ma tant'è. linee d'ombra@radio24.it, se avete voglia di raccontarci la vostra storia, oggi la racconteremo la prima storia di Romolo, poi andremo nel dietro le quinte di quel concerto, poi continueremo la nostra storia seriale, quella che è iniziata questa settimana, che è una storia incredibile, che parla di mafia, parla di un padre ucciso e di una figlia che ne raccoglie in qualche modo l'eredità. State con noi, benvenuti a Linee d'Ombra. Mino Reitano, il cantante calabrese, amava ricordare il suo primo periodo canoro trascorso da emigranti in Germania. Ebbene, cantava in un locale dove si esibiva un gruppo inglese che più tardi scoprì essere i Beatles. E Mino Reitano si rammaricava molto di avere cantato con i Beatles senza saperlo. È ciò che grosso modo è avvenuto a me in un momento preciso della carriera dei quattro ragazzi di Liverpool. Nell'anno 1965 vennero in Italia e tennero due concerti, il primo a Milano e il secondo a Roma. Io a Roma quel 27 giugno c'ero, ma nulla sapevo. E con me nulla sapevano quella moltitudine di carabinieri, miei colleghi, impiegati come servizio d'ordine per l'occasione. Diciamo, in linea di massima, quando venivamo impiegati in servizio non eravamo molto, diciamo, avvertiti del genere di servizio, delle difficoltà a cui saremmo andati incontro. I carabinieri facevano parte dell'esercito, a tutti gli effetti, era la prima arma dell'esercito. Quindi avevamo quella formazione di tipo prettamente militare. Noi era il primo anno, diciamo, di corso, quindi era molto intensivo il corso di addestramento, non avevamo neanche tempo di ascoltare una radio, ecco, questa era, quindi io non conoscevo personalmente, io, ma neanche i miei colleghi conoscevamo il gruppo dei Beatles. Come al solito, lo spettacolo era previsto, se non erro, per le 21 o le 22 e noi fummo impiegati sin dalle 13 o alle 14 all'interno del Cinema Teatro Adriano di Roma, dove doveva tenersi il concerto musicale. Come al solito non fummo informati del genere di spettacolo né ci furono impartite istruzioni, se non quelle consuete di ispezionare tutti i locali al fine di verificare l'assenza di persone estranee o di oggetti sospetti. Trovammo un ragazzino della parente età di 13-14 anni, che si era nascosto dietro ad una catasta di assi di legno, di quelle dei muratori, per intenderci. Ci pregò, piangendo, di non cacciarlo via, come era invece nostro dovere. Ci assicurò che non aveva cattive intenzioni, era soltanto un acceso fan del gruppo musicale che si sarebbe esibito di lì a poco e che non aveva soldi per pagarsi il biglietto. Insomma, tanto ci intenerì che decidemmo di far finta di niente e lo lasciammo nascosto nel luogo dove lo avevamo trovato. I'm a loser, I'm a loser, and I'm not what I appear to be. Of all the love I have won or have lost, there is one love I should never have crossed. She was a girl in a million, my friend. I should have known she would win in the end. I'm a loser, and I lost someone who's near to me. I'm a loser, and I'm not what I appear to be. Although I laugh and I act like a clown, beneath this mask I am wearing a frown. My tears are falling like rain from the sky. Is it for her or myself that I cry? I'm a loser, and I lost someone who's near to me. I'm a loser, and I'm not what I appear to be. Due furono gli avvenimenti che mi sconvolsero quella serata. Molte ragazze, ma anche molte donne di una certa età, alla vista dei Beatles cominciarono a dare in escandescenze, strappandosi letteralmente i capelli della testa e graffiandosi il viso. Era una cosa che io non sapevo che potesse accadere. Svenivano, si buttavano a terra, tanto che continuamente dovevano intervenire vigili del fuoco e infermieri a prelevarle e a portarle via. Un mio collega vide tra quelle forsennate una sua professoressa e me la indicò. Ciò mi sconvolse ancora di più e a tutto questo non sapevo darmi una spiegazione. Rammento solo che pensai all'elevato numero di ambulanze presenti approntate e che avevo giudicato eccessivo, ma che invece presto si rivelarono insufficienti. L'altro fatto invece. Un ragazzino, con un guizzo velocissimo, dribblò tutto l'apparato protettivo del palco, ci saltò sopra come una gazzella, assalì uno dei Beatles, se non erro doveva trattarsi del batterista, e si impossessò del berrettino. Scappò subito via e riuscì a svignarsela tra la marea di gente. E quello era proprio il ragazzino che avevamo aiutato a nascondersi. Ogni volta che in televisione parlano di quel concerto, sto attento alle immagini, sempre sperando di vedere ripresa la scena del ragazzino, ma inutilmente, forse non ci fu alcun filmato. A distanza di tanti anni, sono felice che ci sia stato un giovane che probabilmente da padre e da nonno si sia potuto vantare di quella meravigliosa avventura. Quando abbiamo sollevato le assi e scostato dal muro per vedere cosa ci fosse dentro, abbiamo trovato questo ragazzino, ma era un imberbe, un ragazzino di apparentemente 13-14 anni, non di più, Noi, io ero un 19enne, un 20enne, e così pure i miei colleghi, quindi eravamo poco più grandi di questo ragazzino. Stava sicuramente là già da un po' di ore, quindi già noi andavamo in servizio con 5-6 ore di anticipo sull'evento, quindi veramente, lui praticamente ne ha fatte 8 di attesa, non, se noi ne facevamo 6 ne ha fatte 8. Quindi ci ha fatto un po' pena, poi un ragazzino così inoffensivo, educativino. Questo ricordo era finito nel dimenticatoio della mia memoria fino a quando, poco tempo fa, sul web, ho trovato un'intervista all'attore Paolo Zaccagnini che richiamava proprio quell'episodio. Ricordo, dice Zaccagnini, che entrando abbiamo incontrato dei compagni di scuola e uno di questi era un tipetto particolare, sveglio e con notevole faccia tosta. Beh, durante il concerto a un certo punto parte di corsa, sale sul palco della destra, si avvicina a John Lennon, l'unico col cappellino, quello a visiera, e glielo porta via. Se la cavò solo perché era al 65 e non esisteva servizio d'ordine. Adesso l'avrebbero fatto nero. Allora invece ci pensammo noi. Subito dopo il concerto siamo andati tutti in bagno, invidiosi. Lo abbiamo gonfiato di botte. Non so come si sia rialzato. Fatto sta che il giorno dopo arriva a scuola, pesto e gonfio come una zampogna, ma sfoggiando il cappelletto di uno dei Beatles. Era l'eroe del giorno. Mi pare si chiamasse Nicola. I got something to say that might cause you pain. If I catch you talking to that boy again, I'm gonna let you down and leave you flat. Because I told you before, oh, you can't do that. Well, it's the second time I caught you talking to him. Do I have to tell you one more time? I think it's a sin. I think I let you down. Let you down. Questa è una puntata che è tutta dedicata ai Beatles, o meglio, non è tutta dedicata ai Beatles, è tutta dedicata all'anniversario che ci sarà domani. Oggi è il 26 giugno, domani 27 giugno, è l'anniversario di quello che accadde nel 1965, quindi parliamo di 55 anni fa, quando i Beatles arrivarono a Roma e a Milano, vennero in Italia, suonarono a Roma e a Milano, e a Roma suonarono al Teatro Adriano, come ci ha raccontato Romolo in maniera precisissima. Pronto, ciao Romolo, buongiorno! Buongiorno Matteo, buongiorno. Senti Romolo, partiamo dall'inizio. Tu eri un carabiniere all'epoca, giusto? Sì. Per quanto sei rimasto? Un carabiniere alle prime armi, perché avevo circa 20 anni. Ma eri di leva oppure hai fatto... No, volontario, un volontario. Quindi sei stato un carabiniere per tutta la vita? Per tutta la vita, ho fatto carriera nel rango dei sottufficiali, fino al maresciallo maggiore. Ok, adesso sei in pensione, immagino. Sì, certo, per l'età che ho sono in pensione. Sì. Quanti anni hai adesso? Quanti anni hai? 75 da 8 ottobre, 75. Ah, ok, perfetto. Però mi sembri in splendida forma, Romolo. Sì, ma mi mantengo bene, non mi lamento. Se mi lamento accusavo dolori vari, invece non mi lamento, sto bene. Senti, tu sei della provincia di Salerno, giusto? Sì, della provincia di Gifoni Sei Casali. È un paese, un comune a 20 km da Salerno, nell'entroterra salernitano. Andiamo alla storia invece. Tu come te lo ricordi quel ragazzino? Come uno furbo, immagino, questo? No, era un ragazzino veramente molto delicato, molto proprio un imberbe, un bambinone, però magrolino, ma buono, cioè un bambino proprio tenero, diciamo così, adesso direi tenero. All'epoca avevamo quasi... Quindi non avete pensato di aver fatto una stupidaggine lasciandolo dove era, no? No, devo dire la verità, per tutto quello che poi è accaduto, io non mi sento affatto gabbato da questo ragazzino, anzi io lo considerai veramente un piccolo eroe, perché aveva fatto dei sacrifici enormi, se l'è sudata quel cappellino, sì, perché basta pensare che noi andavamo in servizio 6-7 ore prima dell'evento, e lui per stare lì doveva essere a era già lì, certo. Era già lì da un paio d'ore, quindi sì, un gesto assolutamente eroico, assolutamente sì. Eroico. Quindi tu hai assistito, Romolo, hai assistito a un pezzo di storia della musica. Certamente, sì, a mia insaputa, ma adesso va molto di moda questa frase, a mia insaputa. Ecco, la verità. Perché va molto di moda? Perché dici che beh, se pensiamo ai fatti politici dove si acquistano case a mia insaputa, sì, va molto di moda a mia insaputa e non ho detto questa cosa, oppure sono stato frainteso. Poi non potevo non sapere, io invece veramente non sapevo che chi fossero i Beatles, non lo sapevo. Però te lo sei goduto quel concerto? Beh, goduto, non capivo una parola, perché quelle canzoni, non è che è facile per un italiano capire le parole inglesi. No, non certo. Capivo niente. La musica entrava veramente bella, era bella, perché qualche cosa la sentivamo per radio, certamente noi non la godevamo così, ma poi io mi sentivo, diciamo, stralunato, mi sentivo immerso in un mondo che non credevo esistesse. Perché vedere infatti scene, eri abbastanza scioccato da quelle ragazze che si strappavano i capelli. Certamente, io non credevo esistessero ragazze disposte a graffiarsi, a strapparsi i capelli, a svenire, a lacerarsi il viso e soccorse da tante ambulanze. Una cosa scioccata, sembrava di essere in una fantascienza, ecco, questa è la verità. Ma poi un'altra cosa da aggiungere, che ci tengo ad aggiungere, noi abbiamo assistito, quali tutori dell'ordine, alla commissione di una violazione di legge, però contemporaneamente, perché era diciamo una specie di furto e non abbiamo fatto niente, però eravamo anche noi colpevoli di violazione, perché dovevamo identificarlo, dovevamo cacciarlo via, dovevamo denunciarlo, dovevamo fare rapporto all'autorità giudiziaria di un avvenuto furto e nessuno ha fatto niente, però il cuore va oltre, veramente non mi sono sentito gabbato da questa ragazza, anzi sono già da allora ho avuto ammirazione, perché veramente è stato un gesto. Sono d'accordissimo con te, guarda, sono d'accordissimo con te, Romolo. Senti, Romolo, ti ringrazio molto per la storia che ci hai mandato, per la chiacchierata che abbiamo fatto. Grazie, ti faccio in bocca al lupo per tutto. Complimenti a te e alla tua redazione, siete veramente fantastici. Complimenti e continuate, vi seguirò sempre. Grazie, Romolo, grazie davvero. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see, there will be an answer, let it be. Dopo la storia di quel concerto dei Beatles all'Adriano di Roma, noi ora ci ascoltiamo Le Borse in diretta e poi torniamo qui a parlare sempre di Beatles, ma con un protagonista d'eccezione, uno che li ha conosciuti molto molto bene, qui a Linea d'Ombra, tra pochissimo. Fineco, la banca numero uno in Italia nel trading, vi presenta Linea d'Ombra. In Italia, se si parla dei Beatles, non si può non tirare in ballo anche Alfredo Saitto. Alfredo Saitto è tra i più autorevoli esperti musicali italiani. È un giornalista, un saggista, un autore televisivo, radiofonico, è un produttore musicale ed è ideatore di spettacoli multimediali. È appassionato dei Beatles e ne è considerato in Italia tra i massimi cultori. Nel 2008 ha pubblicato per Donzelli un libro che si chiama Yesterday 1965, la canzone perfetta. Ma Alfredo, oltre che un grande esperto di musica, è anche un grande raccontatore di storie. Forse qualcuno di voi ricorderà la storia di quando si era ritrovato a cena sorpresa a Londra a casa di Paul McCartney, oppure si era ritrovato in motorino con Lou Reed per le strade di Roma. Ecco, a lui abbiamo chiesto di raccontarci qualcosa di più di quel 27 di giugno del 1965. Seguiteci lungo le linee d'ombra. La cosa straordinaria e anche un po' misteriosa dei Beatles è proprio questa, cioè loro hanno stravolto un'epoca, sono stati i Mozart della musica popolare con 8 anni di esistenza come gruppo, 8 anni di carriera, non di più, 6 anni di concerti e 240 canzoni, e poi è finito tutto. Eppure anche con questa carriera così corta hanno stravolto la musica popolare per sempre, sono andati oltre la musica, oltre le canzoni. Dopo Yesterday, nel 65, la scrittura delle canzoni è cambiata. Yesterday è stato l'argine, il confine, la linea tra come si scrivevano prima e come si è scritto dopo la musica. In realtà non è soltanto un fatto semplicemente musicale di Yesterday, ma è qualcosa che travalica, era proprio la colonna sonora di una cultura pop, perché contemporaneamente Andy Warhol, Lichtenstein facevano i quadri pop, gli architetti facevano le costruzioni pop, la moda, Twiggy, la minigonna, i vestiti optical delle ragazze, erano tutto un'espressione di una cultura pop sulla quale noi ancora oggi, non avendo trovato chiavi di volta, ci si campa ancora oggi nel 2020. Il 65 è davvero un anno rivoluzionario sotto il profilo delle tendenze, dell'approccio, del modo di essere, di diventare famosi con dei media che non erano quelli di oggi. I Beatles sono diventati famosi in tutto il mondo, possiamo dire quasi sul passaparola. È stato un gigantesco fenomeno di diffusione delle informazioni e dei gusti fra i giovani. Anche i giornali, anche se vendevano più di oggi, avevano un orizzonte al massimo nazionale e spesso erano conservatori. Quando anni dopo sono andato a lavorare al quotidiano Il Tempo, sono andato a cercarmi negli archivi gli articoli sui concerti all'Adriano dei Beatles nel 65 e il titolo era questo qua: Arrivano i cappelloni. Non c'era rispetto. Che poi nel 65 i Beatles avevano dei capelli normali, non avevano i capelli lunghi come poi hanno avuto dopo il viaggio che hanno fatto in India. Erano anzi con i loro caschetti con la frangia tutti uguali, con i vestitini tutti uguali, di colore nero, con la cravattina nera, erano anche relativamente eleganti. Eppure per l'Italia erano i cappelloni. I Beatles nel 65 erano già i Beatles in tutto il mondo, ma non in Italia. Nel 65 il grande dibattito che c'era nelle famiglie era che quando stavi a tavola con tua madre ti diceva: hai i capelli che fanno schifo, vai dal barbiere, e ci dovevi andare almeno una volta al mese a tagliarti i capelli. Le battaglie erano colpi di tagliati i capelli, mi faccio crescere un pochino i capelli, o compro gli stivaletti, mi fai ridere con gli stivaletti da Beatles, dove vuoi andare? Insomma, si andava a via Sannio a comprarsi la giacca militare perché i Beatles portavano la giacca militare e le madri ce la buttavano nella monnezza. Questa era la vera battaglia giovanile avvenuta in Italia. Kick against modern jazz, unless it's out of play it too darn fast. I lose the beauty of the melody until it sounds like a symphony. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't blues it. Any old time you use it, it's gotta be rock roll music. If you wanna dance with me, if you wanna dance with me, I took my love on over across the tracks. Io c'ero quel giugno del 65. Avevo 15 anni ed ero uscito di casa con due biglietti, uno per il concerto del pomeriggio e uno per il concerto della sera. Erano 3 anni che aspettavo quel giorno. Erano 3 anni che a casa ogni singolo giorno, ogni album dei Beatles che usciva, veniva messo sul giradischi fino all'uscita del prossimo. Mia mamma conosce tutte le loro canzoni perché io per 3 anni sono andato avanti così. Un biglietto allora costava l'equivalente di 30 euro, non di più. Allora i concerti non costavano tantissimo perché le produzioni non erano enormi. Dovevi pagare i musicisti, 4 luci, l'amplificazione e chiusa lì. Non c'erano colonne di tir dietro ai palchi, come oggi. Quando arrivo al cinema Adriano sono convinto di assistere al concerto dei miei desideri, ma, sorpresa, prima dei Fab Four si esibisce Peppino Di Capri. Il promoter, evidentemente molto preoccupato che i Beatles non fossero un nome abbastanza di richiamo, per fare in modo che ci fosse tanto pubblico, aveva chiamato a fargli da supporto Peppino Di Capri, che allora era molto famoso in Italia, aveva un grande seguito. Questa è la realtà dei fatti, cioè nel senso, e in questo quindicenne si domanda che cazzo c'entra Peppino Di Capri, cioè dai Beatles. Ma quando sono usciti loro, anche se non c'era tanta gente, non si è capito più niente. Il palco dell'Adriano si presentava scarno, senza scenografia, con un sipario verdino pallido alle loro spalle e 4 amplificatori nemmeno sistemati bene davanti. Le luci erano ridotte al minimo, tutte bianche, servivano soltanto per illuminare gli artisti. Io cercavo di sentirli, ma probabilmente ero l'unico interessato anche alla musica quel giorno, ma non si sentiva niente, le urla erano più forti dell'amplificazione, però è stato incredibile, è stato un rito. Non ricordo l'episodio del furto del cappello, ma io ho visto solo 2 dei 4 concerti che fecero e probabilmente è successo in un concerto che mi sono perso. Purtroppo avevo il budget sufficiente soltanto per comprarmi 2 biglietti. Meglio mi è andato qualche tempo dopo, quando vidi tutti e 4 i concerti che Jimi Hendrix fece in 2 giorni al Teatro Brancaccio di Roma. Quanto ai Beatles, quella è stata l'unica volta che li ho visti in concerto. Separatamente poi li ho rivisti tutti e con Paul McCartney ci ho passato anche una serata a cena, mangiando male, a casa sua. Ma Paul, George, John e Ringo insieme li ho visti soltanto quelle 2 volte, il 27 di giugno del 65, a Roma. Nel 68 hanno fatto il loro ultimo concerto insieme sul tetto e poi si sono sciolti. Gli ultimi loro dischi insieme sono usciti nel 70, ma loro si erano già sciolti e ognuno andava per la propria strada. Tant'è vero che dal 71 Paul aveva il suo gruppo, John Lennon stava a New York con Yoko Ono, George Harrison fece il concerto per il Bangladesh con Eric Clapton, ma quello di 55 anni fa all'Adriano è stato un grande rito collettivo. Almeno posso dire di averli visti almeno 2 volte nella vita e 4 insieme. E sono felice così. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why? Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Mm-hmm. Grazie a Mauro Pescio che ha raccolto questa storia e grazie soprattutto ad Alfredo Saitto che ha sempre un modo magnifico di condividere le sue esperienze, soprattutto quelle musicali, soprattutto quelle con i Beatles. Ecco, in questo modo abbiamo voluto celebrare questo piccolo anniversario legato a questo giorno di moltissimi anni fa in cui il più grande gruppo pop, rock di sempre è venuto anche qui in Italia. Ora ascoltiamo Le strade in diretta, poi torniamo a raccontare qui a Linea d'Ombra. Cari italiani, care italiane, buone notizie dal fronte economico. Ci ha pensato Nissan. Non aspettare ancora. Agli incentivi ci pensa Nissan. Da oggi, se rottami o permuti il tuo vecchio veicolo, su Nissan Qashqai hai fino a 7.450 euro di incentivo fase 3 anziché 4.850. TAN 4,99, TAEG 6,11 con finanziamento iBuy, salvo approvazione Nissan finanziaria. Info e condizioni su Nissan.it. Ti aspettiamo in concessionaria in tutta sicurezza. Linee d'ombra. Abbiamo raccontato alcune storie di autotrasportatori in questo periodo, in questo ultimo mese, una settimana, perché gli autotrasportatori sono una categoria molto affezionata alla radio, molto affezionata alla radio di parola, alle storie che raccontiamo, ce ne mandano tantissimo, ci scrivono in tantissimo e quindi abbiamo deciso di lasciare un po' di spazio a loro per raccontarci un pochettino l'esperienza che hanno vissuto là fuori mentre noi eravamo rinchiusi in casa. L'abbiamo fatto grazie alla rivista TIR, che è il mensile ufficiale dell'autotrasporto pubblicato dall'Albo Nazionale degli Autotrasportatori. E la storia che vi raccontiamo oggi è la storia di Stefano Adami, di Udine. Oltre a fare l'autotrasportatore, sono legato rappresentante di un'azienda di autotrasporti che ha una ventina di autocarri che operano in Friuli, Venezia Giulia e nel Veneto. Questa è la mia area di lavoro. Mi occupo prevalentemente di trasporti a temperatura controllata e in particolare mi sono specializzato nel trasporto per la ristorazione, un settore che in questo momento qua sta subendo delle forti contrazioni dovute ovviamente al fenomeno del Covid. Si sta piano piano ritornando ad una normalità che dovremmo abituarci ad una strana normalità, la definisco io, perché le restrizioni, distanziamenti sociali anche per le attività di ristorazione, di bar eccetera, portano sicuramente a una contrazione dei volumi di vendita e di conseguenza nello specifico dello trasportato nostro. Si spera che questo periodo sia il più breve possibile, di ritornare lentamente ai volumi di traffici che erano del pre-Covid-19. Stefano è un titolare d'impresa ed è un conducente di Udine e quindi è in grado di offrire una doppia visione di quello che è successo. Racconta così: trasportiamo merci a temperatura controllata nel Triveneto, sia generi alimentari per la grande distribuzione, sia beni destinati alla ristorazione. Se con i primi prodotti non abbiamo subito grandi contraccolpi, con i secondi, vista la chiusura di tutti i ristoranti, abbiamo perso molto. Infatti ho deciso, per buona parte dell'azienda, di ricorrere agli ammortizzatori sociali. Non ho potuto fare altrimenti. Il primo periodo è stato assurdo, c'erano grossi disagi, gli autisti erano spaventati, avevano poi l'obbligo di restare in cabina durante il carico e lo scarico, ma così non potevano supervisionare le attività, di cui però restavano responsabili. E poi c'erano problemi che possono sembrare spiccioli, ma che sono riferiti a bisogni essenziali della persona, difficoltà a trovare un posto in cui mangiare, fare una doccia, usare il bagno. Io mi auguro che quanto è accaduto cambi qualcosa. Per le aziende a volte l'autotrasporto rappresenta solo un costo, non un valore aggiunto, e perciò si scelgono vettori più economici. Spero che si sia capito, in questo momento di difficoltà, quanto sia importante l'autotrasporto qui in Italia. Sweeping, still my guitar gently. told you they bought and sold you. Antonina Azzotti è una bambina, di 4 anni quando suo padre viene freddato da un sicario della mafia, semplicemente perché cercava di redistribuire le terre nella Sicilia del 1946. Era un uomo buono, era un uomo colto, era un sindacalista. Lei ha deciso di raccontare la sua storia in un libro che si intitola Ad alta voce, e ha deciso di raccontarla ad alta voce a noi, in particolar modo a Mauro Pescio, che la racconta per noi. Antonina oggi è una donna matura, che però ricorda tutto nitidamente, tutto quello che è accaduto, e non solo la notte in cui suo padre è stato ucciso pochi giorni prima di Natale, ma ricorda tutta l'infamante omertà che è arrivata dopo su di lui e sulla loro famiglia, e qui ce la racconta per bene. E distruggevano anche la memoria, obbligandoti a non parlarne più, perché non doveva essere preso come un esempio quella vittima, assolutamente. E quindi si dicevano tutte le cose più nefande. C'era chi era ubriacone, chi era un intrallazzista, c'era chi era femminaro, perché quel delitto, quando non c'era altro a dire, si diceva che era imputabile alla sua condotta di seduttore, e quindi meritava questa morte. Io avevo 4 anni allora, assorbivo quelle dicerie e mi chiedevo come fosse possibile che il mio papà fosse stato così irresponsabile da non considerare anche le conseguenze del suo operato. Aveva pensato, mi chiedevo, alla mamma, a Pinuzzo, aveva pensato a me. La sua morte sembrava dimostrare a tutti, e tutti erano sicuri che lo dimostrasse anche a me e mia madre, che la famiglia aveva avuto ragione nel giudicare negativamente quell'unione tra lui e mamma. Aranci, aranci, culi fa li guai, si li chianci. Arance, arance, chi fa guai poi se li piange, ripetevano a chi impietosito accennava la nostra disgrazia. Era soltanto una delle frasi che sentivo ripetere e che, pur non riuscendo ancora a interpretare con chiarezza, mi suonavano sinistre e pregne di perfidia tagliente. Chi glielo ha fatto fare? Si poteva godere la famiglia, farsi i fatti suoi, a quest'ora sarebbe ancora vivo. Poverini, meno male che sono ancora piccoli e non capiscono. Ecco, il crudele rosario si concludeva con una frase che mi appariva la più malvagia. L'arvulu pecca e la rama ricivi. Parole che mi risuonavano come una sentenza maledetta, perché ne intuivo, ahimè, tutto il senso. L'albero, mio padre, aveva peccato, e noi, sue propaggini, eravamo ora condannati a espiare il peccato da lui commesso. Mi facevano dubitare che mio padre fosse morto per la sua imprudenza, per la sua irresponsabilità, per la sua colpa. Ma qual era stato il peccato di papà? Come mai, prima di commetterlo, non aveva pensato a me, a noi? Come aveva potuto lasciarci soli? Era il papà buono che avrei voluto, o era il papà cattivo che ci aveva abbandonato? Un dubbio che mi ha portato a leggere e a documentarmi sui libri che quella pagina di storia raccontano. E in questi libri ho trovato il nome di Nicolò Azzotti, ma anche di Accurso Miraglia, di Calogero Cangelosi, Placido Rizzotto, Salvatore Carnevale, l'Epifanio Lipuma, e così tante. Non ti sto qui ad elencarli tutti, ma io, quando vado in giro a rendere la mia testimonianza, parlo e cerco di nominarli tutti, un numero il più grande possibile, perché tutti devono avere riconosciuto questo grande onore, che è l'onore della memoria, e non dimenticati, come è stato fatto per 50, 60, 70 anni, completamente dimenticati, sono sconosciuti. Per anni e anni non mi sentii in pace né con lui né con me stessa, in un ambiente dove quell'omicidio dimostrativo aveva procurato terrore e disorientamento, inducendo con violenza ogni compaesano a farsi i fatti propri. Di lui non sentii mai dire «è stato un uomo coraggioso», mai. Nessuno osava giudicare l'operato della mafia e nessuno commentava a voce alta quell'assassinio. Ci è voluto molto tempo perché riuscissi ad individuare e accertare da che parte stessero la ragione, il giusto e il diritto, e da che parte invece il torto, l'errore e il comportamento criminale. Se costruirmi il padre nella sua valenza affettiva è stata per me un'esigenza viscerale, irrinunciabile e sacrosanta, dare a Nicolò Azzotti una collocazione e un ruolo nel suo contesto storico è stato necessario per capire, accettare e dare un senso alla sua morte. Sembra davvero incredibile la storia che che deve trovare il modo per giustificare l'idea della bontà di suo padre nella sua testa dopo che suo padre è stato ucciso dalla mafia. È davvero incredibile, vi raccontiamo questa storia tutti i giorni, grazie a Mauro Pescio che la raccoglie, grazie ad Anita Panizza, a Luca Micheli e a Paolino Corleoni. Ora ascoltiamo il GR, voi fate un ottimo weekend, ascoltatevi la storia seriale nel weekend, domani sera, sabato alle 21.30, tutta raggruppata, tutte 5 le puntate della settimana, e poi mandateci la vostra storia, linee d'ombra@radio24.it. Ci sentiamo lunedì per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!